L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'Altro Pianeta, il programma che Radio 24 dedica al rispetto per l'ambiente e alla sostenibilità. Torniamo in questa puntata a parlare di vino. L'abbiamo fatto in occasione del Vinitaly in passato. Oggi vogliamo proseguire su due filoni. Il primo è quello aperto e affrontato proprio in occasione del Vinitaly dei cambiamenti climatici, dell'influenza che questi possono avere sulle colture e in particolare sulla viticoltura in Italia. Il secondo filone è quello invece delle curiosità sostenibili, di azioni e situazioni intraprese o vissute dai viticoltori italiani che ci hanno colpito e che oggi vogliamo trasmettervi. Ma cominciamo dai cambiamenti climatici, come dicevamo, un tema su cui ha lavorato molto Greenpeace come naturale ramificazione delle ricerche che l'associazione da anni ormai compie sui cambiamenti climatici e sulle loro conseguenze. Del resto è ovvio che per un prodotto delicato come il vino, il cambiamento delle condizioni climatiche locali, quindi la variazione dei parametri di temperatura, umidità relativa, piovosità, eccetera, legata al surriscaldamento globale, abbia delle conseguenze su quantità e qualità della produzione. Non che queste siano solo conseguenze disastrose, anzi, in Sicilia, e ne parlammo proprio nella nostra trasmissione registrata dal Vinitaly, il fatto che piova di più non è per i viticoltori un danno, e nemmeno in Trentino ci si dispera, ma le coltivazioni si spostano sempre più in alto sulle montagne. Certo è però che bisogna imparare ad adattarsi a questi cambiamenti intervenendo nella fase di produzione e spesso anche in quella di raccolta. Greenpeace ha notato ad esempio che i cambiamenti sono già molto evidenti nelle aree francesi del Beaujolais e del Bordeaux, ma anche in Italia il clima sta cambiando. Giuseppe Onufrio è il direttore esecutivo di Greenpeace e l'ha intervistato Paolo Usinabia. I cambiamenti climatici stanno modificando in tutto il mondo e anche in Italia le condizioni di produzione per il vino, e che quindi la tipicità del vino italiano e la possibilità di coltivare il vino in futuro, soprattutto in alcune aree del centro-sud, è messa a rischio dall'aumento della temperatura. Anche per ricordare che gli impegni dei governi fin oggi non ci consentono di stare sotto l'aumento medio di 2 gradi in un secolo, che è quello che i governi a parole vogliono fare, e che quindi c'è la necessità di intervenire sia adattando le colture per resistere, ma anche intervenire nel dibattito e chiedere ai governi un maggiore impegno per evitare le conseguenze più catastrofiche dei cambiamenti climatici che porteranno alla sparizione di alcune tipicità se la situazione continua ad andare come sta andando in questi ultimi 20 anni. Quali potrebbero essere gli effetti sull'agricoltura? Diciamo, si è parlato di 1 grado in più appunto nel vino, ma altri effetti disastrosi anche economicamente? No, gli effetti sono soprattutto che i vini più delicati, i bianchi, i vini tipici rischiano di scomparire, cioè che i viticoltori per continuare a produrre debbano cambiare vitigni e quindi portare delle specie in aree che non erano originarie. E in alcune aree del centro-sud, per esempio, questo già accade con l'Aiano e con la Falanghina, in Campania, dove in alcune valli è difficile continuare a produrlo. Vale per i vini bianchi e per gli spumanti, così come vale per esempio per il Pinot Nero in Borgogna. Il nostro studio è iniziato in Francia e abbiamo visto che ci sono tante analogie anche in Italia. Il dibattito di oggi porta dati molto simili, e cioè se non facciamo qualcosa ci sarà uno spostamento verso nord e verso altitudini superiori delle produzioni attuali, però questo significherà perdere la tipicità attuale. Quindi pensiamo che sia venuto il momento, come è avvenuto già anche in Francia, di un'alleanza tra ambiente e produttori, sia per adattare, per misure di adattamento, ma anche per misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e come sappiamo sono le principali responsabili del cambiamento climatico. Quindi un appello ai governi perché prendano degli impegni vincolanti che consentano al pianeta di stare al di sotto di un certo aumento di temperatura, perché altrimenti ci sarebbero troppi guai. L'aumento delle temperature medie italiane è stato di circa 1 grado nell'ultimo secolo e di 1,9 gradi, quindi quasi 2, nelle massime estive negli ultimi 20 anni. La piovosità subisce una lieve diminuzione generale, ma a punte marcate di diminuzione in alcune aree della pianura padana. È una sorpresa ed è anche evidentemente in gran parte un danno. E c'è però un relativo aumento invece della piovosità, come già accennavamo, nelle aree centrali centro-meridionali. Su quanto accade al nord, sentiamo la testimonianza di Giorgio Piazza, che è il presidente della Coldiretti del Veneto. Che cosa sta cambiando in Veneto in particolare? Sta cambiando in maniera perentoria, i fenomeni che sono sempre più concentrati e sempre più violenti. Passiamo dalle alluvioni del 2010, del Padovano, del Veronese, del Vicentino, per avvenire invece all'inverno e alla primavera entrante, dove siamo abbondantemente sotto i limiti storici delle portate dei fiumi. Quindi ci aspettiamo per il futuro, noi anche un po' lo speriamo, eventi piovosi, magari più distribuiti, ma che comunque hanno questa pericolosa tendenza a concentrarsi. Questo è il cambiamento più grande, impone scelte poi a noi imprenditori anche di tipo agronomico e culturale molto molto precise. Ma in che maniera influiscono, diciamo così, sulle colture? Si parla appunto di questo grado in più, può essere anche danneggiare il nostro mercato? Ma sicuramente imporrà delle scelte molto precise, come dicevo, da parte degli imprenditori. Il danno più grande è sicuramente, ad esempio qui siamo al Vinitaly, parliamo di vite, sono gli anticipi di germoglio, gli anticipi di fioritura, che poi si traducono in anticipi di maturazione con cali dell'acidità. E quindi ci consigliano di cambiare tecnica nella gestione del vigneto, della chioma, gestione agronomica delle concimazioni, della gestione agronomica del terreno, del sottofila. Questo è molto importante perché noi dobbiamo tentare in tutti i modi di compensare il più possibile queste forti variazioni che il clima impone per continuare a produrre quei prodotti che sono la gioia e il vero valore e l'orgoglio della nostra regione del Veneto. Ed è sempre Greenpeace a riferire che un questionario condotto nel 2005 presso 255 produttori di vino in Italia, Francia e Germania dava risposte non del tutto univoche sugli effetti percepiti sulle produzioni a causa dei cambiamenti climatici. In termini di qualità di vino, 2/3 degli intervistati italiani ha confermato che la qualità aveva subito un impatto. Nel 55% dei casi si trattava di un impatto positivo. Il 56% notava anche un impatto sulla quantità e di questi la gran parte registravano una diminuzione però nelle produzioni, quindi più buono ma meno. Allo stesso tempo il 56% riportava un impatto sull'aumento dei parassiti e anche questo è un dato negativo. In generale una forte maggioranza, l'80%, percepiva un aumento delle minacce alla produzione di vino. Solo una minoranza degli intervistati italiani aveva preso in considerazione l'eventualità di cambiare le varietà coltivate per un migliore adattamento alle mutate condizioni climatiche. E però esiste un concreto rischio che i cambiamenti climatici ci costringano a cambiare la mappa delle aree vinicole e delle coltivazioni di specifiche varietà. In futuro potrebbe non essere più economicamente sostenibile, per esempio da un punto di vista dell'approvvigionamento idrico, continuare a coltivare certi vitigni in certe aree. Di sicuro, prima del punto di rottura, che potremmo almeno tentare di arginare, lo sappiamo, con politiche e pratiche di controllo delle emissioni, molto si può fare anche nel proprio particolare, nel proprio piccolo, all'interno delle aziende agricole, e questo ha sottolineato sempre al microfono di Paolo Usinabia il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. La sostenibilità è legata a una gestione più razionale dell'acqua, a una gestione sostenibile dei fertilizzanti o comunque dei meccanismi che servono a proteggere le produzioni, a una gestione energeticamente efficiente delle cantine, del trasporto del vino, della conservazione del vino. Ci sono misure concrete che si possono attuare e che stanno all'interno delle buone pratiche, non è che dobbiamo fare cose straordinarie, però mettere insieme le buone pratiche è un risultato importante. Le aziende italiane secondo lei sono indietro su questo fronte? No, direi che le aziende italiane hanno invece un passo avanti rispetto a molte imprese europee e dobbiamo valorizzare questa competenza delle imprese italiane proprio per dare il valore. E come promesso, dopo i cambiamenti climatici passiamo alle curiosità scovate dal nostro Paolo Usinabia nei giorni del Vinitaly, tutte rigorosamente legate quindi al vino e alla sostenibilità. La prima storia che vi vogliamo raccontare è quella di un'azienda italiana che, partendo dal caffè, è arrivata alla viticoltura, ma in Romania. Emanuele Reolonga è responsabile di produzione di un'azienda vitivinicola che ha sede in Romania, ma che è di proprietà italiana. Si chiama Petro Vasello. Allora, l'azienda è di proprietà dell'azienda CMA di Susegana, che fanno macchine per caffè espresso professionali, quindi tutt'altro. Hanno deciso di diversificare? Hanno deciso di diversificare e di investire nel comparto vitivinicolo in Romania. Siamo un'azienda ecologica, ci riteniamo un'azienda ecologica in quanto lavoriamo manualmente tutti i nostri vigneti, cerchiamo di avere una viticoltura ecosostenibile gestiamo oltre ai 40 ettari di vigneto altri 100 ettari di superficie ambientale come oasi ambientale per rivalorizzare l'ambiente che sta intorno a noi. Quindi un vigneto che si trova all'interno di un'oasi. Esattamente, sì, un vigneto che si trova all'interno di un'oasi. Questo è un concetto che all'interno dell'ecosostenibilità è importantissimo, perché ci dà la possibilità di ricreare un equilibrio naturale tra la viticoltura, quindi la mano dell'uomo, e invece la natura allo stato, diciamo, selvaggio, però gestita comunque da noi. When the blips are through. Di oasi in oasi andiamo in Sicilia, dove la Gorghi Tondi di Mazara del Vallo, com'è come non è, si è improvvisamente trovata a far parte di una oasi naturalistica. Maurizio Nicolò Gandolfo, che è direttore commerciale della tenuta Gorghi Tondi di Mazara del Vallo. Allora, qual è la particolarità della vostra tenuta? Ma la nostra tenuta è una tenuta antichissima, esiste da 130 anni, coincide con 130 ettari, ma nel 1999 è stata dichiarata riserva naturale del WWF, perché all'interno della nostra vigna insistono quattro laghi di origine carsica: il lago Costa Preola e i laghi chiamati Gorghi Tondi, proprio per la loro particolarità, perché sono proprio come se li avesse dipinti Giotto, sono proprio rotondi. E se non sbaglio è l'unico caso di tenuta all'interno di una riserva? Ma di questo non ne sono certo, non ne conosco però, per dire il vero, altri casi. Certamente è un caso unico il fatto che noi non abbiamo impiantato la vigna all'interno della riserva, ma è la riserva che ha chiesto che la nostra cantina diventasse riserva. Ecco, qual è, diciamo così, la peculiarità anche dal punto di vista del prodotto, del fatto di essere dentro una riserva? Cioè, cambia qualcosa o è solo una questione di etichetta? No, devo dire che noi innanzitutto, preciso, noi non siamo un'azienda che produce biologico. Noi però inevitabilmente ci siamo ritrovati costretti nella fase iniziale a dover cambiare il nostro stile di vita, il nostro modo di operare, il nostro modo di vinificare, di relazionarci con il nostro territorio. Scoprendo giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, che in fondo questa convivenza serena aiutava a gestire in modo diverso le nostre vigne e a produrre in modo diverso anche i nostri vini. E abbiamo scoperto anche che dal punto di vista qualitativo abbiamo avuto un balzo in avanti notevole, quindi la felice convivenza con la fauna e la flora alla fine ci ha anche premiato nella nostra produzione. E infine, per chiudere questa prima parte dell'altro pianeta, restiamo in Sicilia con José Rallo, capo dell'area marketing e comunicazione di Donna Fugata, che è una storica cantina dell'isola. Ecco, voi sotto il profilo, diciamo così, del rispetto ambientale state portando avanti un'iniziativa. Avete da poco avete consegnato 30.000 tappi di sughero. Di cosa si tratta esattamente? Allora, abbiamo scoperto che il sughero è un prodotto riciclabile al 100%, oltre ad essere un'ottima chiusura per quanto riguarda le bottiglie di vino e di vino di qualità in particolare, e quindi abbiamo voluto organizzare una raccolta di sughero usato grazie ad una rete che abbiamo fatto con delle agenzie di viaggio che hanno i loro punti vendita nelle principali città italiane, e hanno raccolto sugheri dai loro clienti regalando una bottiglia di vino ogni 100 tappi raccolti. Questa rete di agenzie ha raccolto ben 10.000 tappi, non pochi. La mia azienda, Donna Fugata, grazie agli eventi in cantina, grazie alla raccolta di scarti, di lavorazione, campionature, ha raccolto 20.000 sugheri. E abbiamo consegnato ad un grande sugherificio portoghese 32.000 sugheri che andranno a beneficio dell'industria della bioedilizia. L'altro pianeta. E dopo la viabilità torniamo insieme, ma restiamo ancora in Sicilia. Abbiamo molto parlato di vino nella prima parte del programma e col vino ha molto a che fare anche la perla di mandorla al moscato di Siracusa, realizzata dalla pasticceria Alfio Neri con materie prime provenienti dal comprensorio locale e fresca vincitrice, la perla di mandorla al moscato, del Sapore Innovation Award alla fiera di Rimini. Alfio Neri è ancora il nome della pasticceria, Franco Neri è uno dei suoi figli e porta ancora avanti con i fratelli la tradizione di questa impresa siracusana. Sentiamo com'è nata la perla di mandorla al moscato. È una ricetta che ha radici con papà che ce l'ha lasciata in dote, però è anche vero che è una ricetta probabilmente la più antica ricetta in cui c'è la mandorla che viene trasformata. Nasce da un dolce che si chiama quaresimale. Come sempre è un dolce a radice monacale, quindi fatto all'interno di monasteri. Noi abbiamo, come dire, poi trovato tra le carte di papà, ma l'abbiamo anche viste fare, questi biscotti in cui c'era la componente maggiore, era la mandorla. Poi c'erano anche la frutta candita e un aroma particolare che nel caso specifico di papà è il pensando, ripensando, lavorando, d'altronde gli artigiani, i pasticceri si danno delle articelle che prima o poi devono saltare. Volevamo aggiungerci anche questo nuovo vecchissimo moscato, perché ricordo che il moscato è stato reimpiantato, il moscato di Siracusa DOC è stato reimpiantato negli ultimi 20 anni a cuore di alcuni pionieri. Alla fine di tutta questa storia, dopo prove e riprove, è uscita fuori la perla di mandorle al moscato di Siracusa DOC ed è talmente buona che abbiamo voluto chiamarla, nomarla, con un suono onomatopeico, quindi si chiama perché è esattamente quello che ti lascia in bocca. Questa perla di mandorla vi sta dando numerose soddisfazioni perché è stata anche premiata e quindi ormai non è più solo una bontà nota a chi abita a Siracusa, ma è una bontà che si sta facendo conoscere in tutta Italia. E voi la realizzate comunque con materia prima locale, questo è importante, no? Penso, per ottenere quel risultato che dicevamo prima. Sì, esatto. La mission che ci siamo dati è quella di mantenere altissimo il livello qualitativo del prodotto che noi mettiamo in commercio. E per mantenere alto il livello qualitativo devi rimanere ancorato al prodotto di partenza. Faccio un esempio molto semplice. Quando una piccola azienda artigianale ha trovato il suo prodotto, diciamo il grimandello del suo business, fa nella maggioranza dei casi l'errore tragico di trasformare il prodotto artigianale in prodotto semi-industriale, facendo finta di rimanere prodotto artigianale, ma adattando la produzione a una, diciamo, a dei numeri molto più grandi. Per fare questo devi necessariamente allargare la base di provenienza dei prodotti da trasformare. A quel punto l'offerta che tu hai sul mercato non è più bastevole per realizzare i numeri che ti sei dato facendo il famoso business plan. La mandorla, noi usiamo solo la mandorla d'aula e quindi solo due o tre tipologie del territorio, o la gemella o la pizzuta, normalmente la pizzuta, ma diciamo che il territorio ci offre anche questo, è la romana. Usiamo il miele degli Iblei, usiamo il limone di Siracusa, il GP, quello che una volta veniva chiamato femminiello, ma che ora è la sua nomata è limone di Siracusa e GP. Ed usiamo il moscato di Siracusa, che è un DOC. Quanto prodotto ci può essere per invadere i mercati, come si fissano certe volte alcuni piccoli imprenditori? Ci sarà tempo e modo per inventare qualcosa di meno tipicizzato, ma questo prodotto, le nostre paste di mandorlo, sono legate al territorio e con il territorio fanno il conto della materia prima. Che cosa ci riserverà oggi Mr. Kilowatt? Sentiamo Maurizio Melis e diamo quindi spazio alla prima delle nostre rubriche. Tra le tecniche per l'efficienza energetica più trascurate c'è l'uso della vegetazione in ambito urbano. Il contributo più immediato che le piante sono in grado di offrire è l'ombra. Opportunamente posizionati, alberi rampicanti possono schermare la luce diretta del sole, per esempio evitando che entri da una finestra o che arroventi la superficie di un terrazzo, il quale poi trasmette il calore agli ambienti circostanti e sottostanti. Nel nord Europa si fa uso da sempre di tetti ricoperti di vegetazione. Parliamo di terrazzi, la cui copertura è costituita anziché da tegole o piastrelle, da erbe e altro tipo di vegetazione. I vantaggi sono molti. Lo strato di terreno agisce come un cappotto isolante d'inverno, ma alle nostre latitudini è forse d'estate che questo strato di vegetazione offre il massimo contributo. Le piante infatti attuano costantemente un processo detto di evotraspirazione, basato sull'evaporazione dell'acqua attraverso la superficie delle foglie, che consente alle piante appunto di non cuocere sotto il sole. Così facendo, esse mantengono se stesse e il suolo a una temperatura accettabile. Scegliendo le specie vegetali giuste, poi, è persino possibile evitare o comunque ridurre al minimo anche l'irrigazione, quindi il consumo di acqua. Oggi esistono sistemi affidabili per realizzare manti di copertura vegetale non solo sulle superfici orizzontali, che tra l'altro trasformano magari un terrazzo impraticabile d'estate in un bel praticello, ma anche sulle pareti. Le pareti verdi sono qualcosa di più di semplici muri di rampicanti. Si tratta di strutture che incorporano anche il terreno e che quindi riproducono sui muri più o meno gli stessi effetti che abbiamo già citato. In pratica, una parete verde ben realizzata funziona quasi come un cappotto d'inverno e forse anche meglio di un cappotto d'estate. Inoltre, può regalare viste indimenticabili, tanto che ormai il verde parietale, questa è la definizione tecnica, sta assumendo spesso le forme di un'espressione artistica. Un modo, insomma, per unire bellezza ed efficienza energetica. Marco Carminati invece ci porta nel mondo della tutela del patrimonio storico e artistico della nostra nazione, come recita la nostra Costituzione all'articolo 9. Buongiorno da Marco Carminati, siamo in collegamento con la presidente onoraria del FAI, Giulia Maria Mozzoni Crespi. Buongiorno presidente. Buongiorno. Ecco, lei è pronta, domani organizzerà un'importante domenica tra il fiume e la brughiera nel Parco del Ticino, una giornata alla scoperta di questo meraviglioso luogo al quale lei, sappiamo, tiene moltissimo. Ecco, perché è così importante? Prima domanda, perché è così importante questo Parco del Ticino per lei? Non è importante per me. Manelli l'aveva chiamato il fiume azzurro d'Italia. Sì. Perché è una zona che va dal Lago Maggiore fino al Po. Di questo fiume, una volta azzurro, ora un po' meno, che scorre tra boschi intatti con ogni tipo di uccelli che volano sopra la testa, con lo sfondo del Monte Rosa, con dei greti su cui scorrono i rivoli d'acqua, con delle sabbie bianche dove in passato, quando ero bambina, c'erano i cercatori d'oro che cercavano le pagliuzze d'oro, ecco, da poter recuperare, per cui è un luogo assolutamente magico. Ci sta facendo percorrere un luogo da sogno che a tutti quanti è possibile domani in qualche modo visitare, facendo un'esperienza, tra l'altro seguendo lei e Fulco Pratesi in questa passeggiata che, leggo dal programma, segue la via Gaggio, che è una strada che sta all'interno del parco, sentiero, si partirà vicino all'Onate Pozzolo. Ecco, vicino all'Onate Pozzolo ci si raduna alle 10 di domani mattina, domenica 27, l'appuntamento è al Centro Parco Dogana Austro-Ungarica a Tornavento, l'Onate Pozzolo, questo è molto importante. Da lì ci si raduna, ci sarà una bella banda che accoglie i partecipanti e poi ci si incammina, seguendo lei, presidente, seguendo Fulco Pratesi del WWF. E che cosa vedremo se la seguiamo? Se domani veniamo con lei, che cosa ci illustrerà? No, intanto per cominciare ci saranno moltissimi giovani, famiglie, addirittura con cani, giovani con biciclette, nonni, vecchi, tante persone che sono lì riunite, oltretutto con Daverio che ci filmerà, certo, con la sua straordinaria trasmissione. per dimostrare che la brughiera che noi attraversaremo, sì, che è una delle poche brughiere intatte d'Europa, può correre il rischio di venire scalfita e totalmente rovinata col progetto della terza pista di Malpensa, perché la terza pista di Malpensa, oltre a portare tutti i danni con ulteriori aerei, quali già ora stanno facendo morire con i loro scarichi dall'alto centinaia di querce, e stanno con i loro rumori allontanando anche molti migratori, a parte tutto questo, questo luogo con la terza pista potrà avere possibilità di creare supermercati, villette a schieri, alberghi, per cui un grande centro di lottizzazione. In questo momento è stato deciso di sospendere la cosa, ma noi sappiamo che sotto sotto gli interessati, ovvero sia gli speculatori, temo anche numerosi leghisti, i quali vogliono sotto banco ottenere tutti i permessi per poter domani, quando la recessione sarà finita, la recessione presto finirà, loro possano procedere con la scusa di dare una terza pista per l'Expo, oltretutto dimenticando che in Alta Italia ci sono già una decina di aeroporti, certo, che i treni sono sempre più veloci, che sono anche molto più comodi, e che dall'altra parte la gente ha bisogno di natura, di bellezza, di armonia, di ossigeno. Noi dobbiamo difendere il Ticino, anche perché nel Parco Ticino ci sono delle meravigliose aziende agricole e noi più che mai abbiamo bisogno della filiera corta, dei prodotti locali, con la degustazione locale. Abbiamo anche bisogno del turismo, e il Parco Ticino potrebbe essere una straordinaria fonte di turismo controllato, per cui io prego tutti, venite numerose, protestiamo per questo. Presidente, domani, dopo questo accoratissimo appello e descrizione di questo luogo fantastico, credo che dietro di lei ci sarà un bel numero di persone e di cittadini che vengono a godersi il parco, ma anche a vigilare sui pericoli che questo parco sempre corre. Grazie mille, presidente. Arrivederci. Arrivederci, grazie. E grazie a tutti gli ascoltatori. Arrivederci domani. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Per scriverci vi ricordo l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.